Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Siamo qui, siamo tornati, siamo i funamboli, cara Veronica Gentili, buongiorno. Buongiorno, bel biondino. Eccoci qua, allora esordiamo benissimo. Come andiamo? Promette, stai bene? Benissimo. Salutiamo tutti quanti voi, cari amici, anche il nostro Peter Bescapè in regia. Oggi vi salutiamo tutti all'inizio, la nostra Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, Elisa Pancaldi, questa è la redazione dei Funamboli, e poi c'è Veronica Gentili qui, e poi c'è Leonardo Manera che si aggira. È una giornata uggiosa oggi, eh? Strano a Milano, eh? Abituati. È bizzarro. Abituati. Oggi però è una giornata importante. Roma in compenso naviga nell'acqua. No, quindi... infatti adesso non puoi neanche dire quella che a Roma invece c'è il gran sole. Non vorrei essere costretta a spezzare una lancia, però almeno qui non sono venuta a nuoto. Quindi... Ecco, è chiaro. Allora, alle 9:07 minuti diamo le coordinate 800 24 00 24, se volete chiamarci. 349-238-6666 se volete scriverci, oppure mandare i WhatsApp con l'audio. Cara Veronica, oggi tra l'altro è un giorno importante, se sei andata in città, se sei andata per Milano avrai visto che ci sono persone tutte in fibrillazione, si muovono, perché oggi è un giorno, come si riprende... Eh beh certo, oggi ricominciano le scuole, abbiamo detto, no, in Lombardia, no? No, non mi riferivo a quello, c'è grande attività, soprattutto anche a Roma ci saranno persone che si muovono, perché dopo una lunga pausa estiva... Eh certo, ricominciano le scuole, no, che c'hai, sei prolisso oggi? No, il Parlamento riapre, siccome tutti gli ascoltatori mi dicono... Ah, ma tu fai le ferie eccetera, 39 giorni di pausa estiva, salutiamo oggi martedì 12 settembre la riapertura del Parlamento ufficiale. Aspetta, fammi capire, tu per giustificarti delle tue lunghe ferie certo, te la prendi certo, con l'unica categoria che è peggio di te, ovvero i parlamentari. Certo, cioè questa doveva ovvio essere un'autodifesa, hai peggiorato la tua situazione. Ovvio. Milan candidato, no, Milan candidato. No, no, no. Quando succederà il mondo finirà. Non succederà, state tranquilli, vorrei tranquillizzare gli italiani, non mi candiderò mai in niente, neanche pensa, rappresentante. Pensa quante ferie, pensa alle ferie. No, comunque per sono contento. Sei tanto antipatico, sì, che puoi far ferie tutto l'anno. Questo è il nostro ascoltatore che mi ama tantissimo. Lui ti vota, per esempio, lo senti? Lui mi vota sicuramente. Dai, le 9:09. Tra l'altro sono contento perché tra due giorni, come scrive oggi Concetto Vecchio su Repubblica, scatta il famoso vitalizio per i primi, quelli alla prima legislatura. Sono 608 deputati, tra deputati e senatori, 417 a Montecitorio e 191. Scusami, ma candida sciocchina che non sei altro. Perché pensavi che tornassero dalle ferie, sennò? Ah no, dice per quello. Quindi. C'era un'urgenza, una cosa stringente. Se ti ricordi, a due giorni dal vitalizio hanno detto oh. Quest'estate, se ti ricordi, dicevano si vota in autunno, si vota a dicembre. Poi, secondo alcuni, uno dei motivi per cui è naufragato tutto questo. Sì, lì c'è stata, ti ricordi, ci sono state tutte le polemiche relative alle date, se sì, fosse realmente sì quella la ragione o no, quanti giorni servissero per maturare il vitalizio, per cui anche lì di notizie e false notizie se ne sono diffuse in tutti i modi. Però nei giornali di ieri, insomma, c'è stata anche la dichiarazione del segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, sì, che ha dichiarato, insomma, così un po' tra il serio e il faceto, però sembra essere intenzionato a volersi candidare al Senato, che voleva abolire, non è stato abolito, ad Arezzo, che come sappiamo è la città, insomma, è il tallone d'Achille dell'ultima stagione del governo renziano per tutte le vicende legate alle banche. Beh, banche... Una bella sfida. No, sapevo che tu avresti subito apprezzato, no, dicendo bene. No, apprezzato, ma... nel senso, no, si butta lì nella fossa dei leoni, va lì a combattere. Vogliamo definirlo un comportamento un tantino arrogante, come dici? Dire, sprezzo del pericolo, io vengo a farvi vedere che mi candido al Senato ad Arezzo? Vogliamo definirlo così? Io dico che poi in politica i voti si contano, quindi se vuole candidarsi ad Arezzo lo faccia, sicuramente, voglio dire, lo fa in un collegio dove non è accolto solo da applausi e poi si vedrà. Infatti io aspetto di vedere. Aspettiamo di vedere. Intanto dai, le 9 e 11 minuti, purtroppo, cara Veronica, dobbiamo partire però da temi molto più pesanti, perché la vicenda di Firenze con i due carabinieri accusati di stupro, purtroppo oggi sui giornali si legge di una nuova vicenda molto triste, molto brutta, di una finlandese che è stata violentata a Roma, in pieno centro, anche se nelle ore notturne, ma in pieno centro, vicino pieno alla stazione centro, Termini, accanto alla stazione Termini, da un ragazzo bengalese che tra l'altro era qui con un permesso per motivi umanitari. Da tutto qui ripartiamo. I pulled in the Nazareth, was feeling about half past dead. I just need some place where I can lay my head. Noi siamo i primi ad avere interesse che la verità emerga presto, perché non possiamo consentire che un atto così vergognoso, così esecrabile, odioso, se confermato, possa macchiare l'immagine dell'arma dei carabinieri del nostro paese e anche della nostra città, che ogni giorno ospita 10.000 studenti stranieri nelle tante università, molte delle quali sono università americane. Noi abbiamo qui più di 40 università americane e abbiamo una grande tradizione di accoglienza. Il sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha detto anche, e ci sono state anche delle polemiche, perché ha detto anche, insomma, Firenze non può neanche essere la città dove si viene qui e dove è la paragonata a Disneyland, no? Dove si abbiamo viene approcciato ragazza. L'argomento ieri, no? Sul fatto che questa dichiarazione era stata, cioè, contestualizzata in un momento, possiamo dire, sbagliato, nel senso, a mio avviso. Infatti adesso probabilmente andremo a discutere anche di questo, perché si può dibattere su quali siano appunto gli usi che possono avere i ragazzi a Firenze, gli studenti universitari americani, se realmente c'è prenderla in maniera così un po' troppo, non saprei neanche che espressione usare, un po' troppo godereccia rispetto a quello che può essere uno standard di studio. Però sono giovani studenti all'estero, infatti, fanno anche sicuramente delle stupidate, ecco, ci diciamo, saranno anche, insomma, a 20 anni uno parte, va all'estero, insomma, sta anche nel gioco delle cose. Però uno può anche fare da sindaco una riflessione. Il problema è l'opportunità del momento in cui la riflessione viene fatta, e nel momento in cui si discute di uno stupro, ipotetico stupro, ma questa è la materia del contendere, probabilmente quella dichiarazione non era d'uopo. Vediamo un po', il vice sindaco di Firenze con noi, Cristina Giachi, la salutiamo, la ringraziamo. Vice sindaco, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Buongiorno a voi, bentrovati. Con noi c'è anche Anselma Dell'Olio, che è un'americana di nascita, ormai naturalizzata italiana, giornalista, critica cinematografica. Buongiorno e benvenuta, Dell'Olio, grazie di essere con buongiorno. Noi. Buongiorno. Allora, vice sindaco, glielo chiediamo subito, insomma, è chiaro che Firenze è sotto shock. Oggi, tra l'altro, sui giornali c'è anche il nome dell'appuntato di uno dei due carabinieri, che è quello che avrebbe ammesso il rapporto sessuale. L'altro invece verrà sentito oggi. Firenze è sotto shock. Perché effettivamente mettere anche l'accento sul fatto che però i giovani stranieri a Firenze magari si comportano in modo sopra le righe? Ma io non credo che fosse un mettere l'accento. Guarda, è capitato anche a me che in un'intervista mi sia stato chiesto: ma questi studenti come vivono? Quali sono le criticità di una presenza così importante? Perché sono circa 8.000 su una popolazione studentesca complessiva di 70.000 studenti, quindi sono un numero considerevole. E allora uno fa considerazioni anche relative alle abitudini, ai comportamenti, al clima festaiolo che a volte travalica, però questo non c'entra nulla con la gravità della responsabilità di questo fatto, e anche devo dire con lo sconcerto che provoca, perché per noi che lavoriamo su questo tema e nelle forze dell'ordine abbiamo un punto di riferimento proprio per gestire invece il clima generale della città, la vita nella città, si incrina uno dei presupposti fondamentali. A queste ragazze che arrivano, quando facciamo i corsi, diciamo per prima cosa: rivolgetevi agli uomini delle istituzioni se avete una difficoltà. Infatti, questo è stato. Quindi questo è il grosso. Quindi in realtà quella situazione che si crea aggrava la posizione di questi due signori. E questo sì. Ma vice sindaco, ma c'è realmente a Firenze è una città anomala dal punto di vista, secondo lei, dei costumi dei ragazzi? Cioè realmente è vissuta come una Disneyland più di altri posti, come possono essere Bologna, penso a Roma anche, no? No, io credo che noi abbiamo soltanto la caratteristica che, essendo una città molto piccola, in cui appunto questa presenza in proporzione alla popolazione studentesca è così massiccia, si vede di più. E si vede perché è concentrato in poche strade del centro storico, e quindi abbiamo un problema di gestione della città. Ma ripeto, di tutto questo si parla nell'occasione di questa vicenda, ma non ha niente a che fare con questa vicenda. Questo no. Che nasce dentro un locale e nasce nella responsabilità di due rappresentanti delle istituzioni. Sì, che devo dire sono stati anche duramente ripresi, io non voglio dire scaricati, ma comunque sono state dichiarazioni molto dure anche ieri dal capo ufficio stampa dei Carabinieri. Però io vorrei chiedere a Anselma Dell'Olio questa. Anselma Dell'Olio, per chi la conosce, ha combattuto per una vita contro quegli stereotipi, quegli luoghi comuni che ancora una volta sono stati, devo dire, vomitati sulla rete del se ne sono andate a cercare, ma in fondo erano ubriache, ma in fondo erano come si comportavano, se va in giro la notte, se va in giro la notte succede questo. Tempo fa c'era ma aveva la minigonna, no? Si ricorda Dell'Olio? La minigonna è stata un po' messa da parte, dobbiamo anche ripristinare. E che effetto le fa? Tutto questo non è solo grottesco, ma mi sento come Alice nel Paese delle Meraviglie. Invece di parlare di Firenze, della verità, se erano ubriache, se la sono cercata, perché non parliamo del fatto che alla base della società civilmente organizzata c'è la sicurezza garantita ai cittadini? Sentirsi protetti nella persona, nella casa, nel lavoro, nella proprietà. Le forze in divisa sono il primo baluardo di questa sicurezza, anche se quelle ragazze erano consenzienti. Perché mai due carabinieri mandati sul posto a fare da protezione le porta a casa e ancora in divisa le scopa, una sulla scala e una nell'ascensore? Ora, nessuna donna, ve lo posso assicurare, vuole questo. Ma anche se fosse, perché mai degli uomini in divisa sul lavoro, che non devono nemmeno bere, possono fare l'amore, se questo è stato, con due ragazze? Perché? Certo. Perché non parliamo di questo? No, non ma infatti è la domanda base, cioè comunque già dal fatto che abbiano usato, comunque qualcuno dice, è come un taxi la volante, insomma, dei carabinieri per portarle a casa, è già come subito una violazione sicuramente della, oltretutto Alessandro, vorrei inserire un elemento che è un elemento di riflessione, chiaramente è solo uno spunto, però oggi il procuratore di Firenze Creazzo sulla Repubblica e credo in altri giornali ipotizza anche che non fosse la prima volta per questi due carabinieri. Sì, qui diciamo c'è un'ipotesi, per carità. È chiaro, è stato forse il titolo è un pochino forzato, perché le hanno chiesto al procuratore, dice "Ma è la prima volta che fa?" e lui dice "Non posso sapere non se è la prima sapere. Volta", diciamo ieri che tutto c'erano diversi articoli in questa direzione, è evidente che non si può sapere, però è chiaro che ci sono una serie di elementi che sono abbastanza oscuri, per esempio il modo in cui hanno agito in una maniera abbastanza chiara, abbastanza definita, parcheggiando per 20 minuti, sapendo quali erano le dinamiche, segnalando, cioè ci sono delle cose abbastanza oscure in tutta la faccenda. Ma invece Dell'Olio, cosa di noi maschietti, ecco dai, diciamo di noi maschietti. Non è che bere in servizio. Sì, certo. No, ma è chiaro. Ma invece di noi maschietti e di quello che ha sentito da alcuni sulla rete, sui social, che ne pensa? La reazione talebana, no? I talebani, cioè nei paesi dove vige la legge islamica, una donna sposata, stuprata, è colpevole. Sì. Stuprate, cioè, prova provate, è colpevole e va punita, così come qualsiasi donna, perché vuol dire che non che se l'è cercata, appunto, non era chiusa in casa, protetto dalle mura e dai parenti maschi. Quindi questo è la reazione di persone che hanno smarrito ogni buon senso. No, ma poi un altro elemento secondo me, Anselmo, è quello, ho visto molta gente ieri replicare, vabbè, allora se una donna è ubriaca è sempre stupro. Questo mi sembra un argomento veramente fuori tema, che non ha niente a che fare. C'è una legge che si chiama circonvenzione d'incapace. Esatto, è una minorata difesa. 643, esatto. Uh-huh. E va punita con da 2 a 6 anni di reclusione. È un'ammenda abbastanza dolce. A questi qui gli vogliamo dare almeno l'ammenda, se devono pagare o no? Ma è chiaro, allora... ma questo poi si vedrà in fase processuale. Però ha messo un punto importante, Anselma Dell'Olio, la questione della sicurezza. E io posso capire, e vorrei tornare alla vice sindaco di Firenze, Cristina Giacchi, posso capire anche la difficoltà di una giunta comunale, perché la sicurezza è la base nelle città, no? Sappiamo di tutti. Però quando succede che accusati di questa terribile violenza sono le persone deputate, perché sono due carabinieri, a mantenere la sicurezza, è uno, cioè da amministratore comunale, ma non è che voglio farle un assist, ma uno dice ma che si può fare? Cioè nel senso, non era, come dire, in una via sperduta, come è successo a Roma per esempio, no? A Roma forse c'è la questione della sicurezza, visto che in piena notte una finlandese ha chiesto il passaggio a una persona, è stata violentata. Ma qui, voglio dire, sono intervenute le persone che la sicurezza sono deputate a tenerla. È così, questo ci mette di fronte a quello che dicevo prima, che questo fatto è quello che ci aspettiamo e che emerga nella sua assoluta singolarità e in tutta la portata personale della responsabilità penale. Perché se la responsabilità penale è personale, questi due signori dovranno rispondere del reato e poi rispondere davanti all'opinione pubblica dell'aver messo in ginocchio anche l'immagine di una città. Ma infatti, vice sindaco, anche perché per Firenze è realmente una delle possibilità di entrate di denaro più importanti. Cioè, leggevo che i numeri di quantità di visitatori e residenti, non, cioè ci sono 735 residenti a Firenze con passaporto americano. Questi dati Istat, primo gennaio 2016, 4,9 milioni di visitatori. Cioè, guardate che ci ha chiamato l'ascoltatore all'800240024. Mi dicono, tra l'altro, in redazione essere un ex carabiniere. Marco da Milano, buongiorno, è così Marco? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono un ex appuntato scelto dei carabinieri e guarda caso ho fatto servizio proprio a Firenze negli anni 80, negli anni 90, fino al 2000 la situazione non è cambiata e la mia testimonianza è questa. Dunque, detto che quello che è avvenuto è veramente increscioso per me come carabiniere. Certo. Quindi loro subiranno sicuramente, al di là dello stupro, sanzioni disciplinari gravi, e questo è d'accordo. Però aspetterei prima di emettere un giudizio, nel senso che ci devono esserci adesso degli esami medici. Chiaro, ci sarà un processo, esattamente ci sarà un processo, la situazione, perché ci sono due versioni contrastanti. Quindi non perché sono un ex carabiniere, ma questo vale per tutti, dobbiamo aspettare, perché se poi dovesse venire fuori una versione contraria, allora poi ci sarebbero tanti. No, ma è chiaro, non è nostro aspettiamo. Compito fare sì. il processo, noi non esatto. facciamo i processi in radio, certo. cioè, ci esatto. basiamo chiaro. Sui quello, racconti. Quello che voglio dire è questo: io ricordo benissimo che a Firenze ci sono numerose università americane, sì, la sì. Stanford, la Syracuse, e il sabato sera, il venerdì sera, la domenica, questo è un dato di fatto inoppugnabile, dimostrabile, moltissimi ragazzi americani, non tutti, ma moltissimi, che vengono da un paese dove fino a, mi pare, a 21 anni non si possa bere alcol, sì, sì, sì. si lasciano andare completamente, cioè qui non si tratta ma di ma questo è un andare. Dato di fatto, capisce che però faccio solo finire, è solo un dato di fatto, quello che sto dicendo non va pro contro qualcuno, io sto solo dando una descrizione dei fatti. Il fine settimana abbiamo, io ricordo benissimo, fermato diversi americani che vandalizzavano autovetture in sosta. No, ma non è chiaro, cioè ci dice che il weekend diventa un po', come dire, una terra di conquista anche per ubriachi, per quindi perdono un po' il controllo. Il problema, vorrei tornare ad Anselma Dell'Olio, è che questo è stato associato, cioè questo è un dato di fatto, no? C'è questa problematica Dell'Olio. Però uno dice, beh, allora è una questione di ordine pubblico, punto, da affrontare. A me è capitato diverse volte, come carabiniere, di raccogliere ragazze completamente ubriache per terra. Allora quello certo. che dico, noi chiaramente abbiamo chiamato l'ambulanza, abbiamo fatto quello che andrebbe fatto, come si dice da noi, secondo il regolamento, non quello che i miei colleghi hanno fatto. Sì, che, sì, e non no, ma questo ce l'ha detto, no. Marco. A maggior ragione, appunto, no? Anselma Dell'Olio ha sentito quello che ha detto. Sì, ho sentito, carabiniere. Vorrei sapere quanti di queste, magari incoscienti, abbiano abusi che non sapranno mai che è stato. È evidente che il dubbio è lecito porselo. Adesso sta buttando la croce addosso agli americani, come se gli italiani, i giovani italiani, non si ubricassero, non si facessero nelle discoteche, non si facciano ammazzare per strada perché sono completamente fuori di testa. Adesso basta, questo è rovesciare assolutamente tutto addosso agli americani. Ma siamo impazziti, perché gli italiani sono tutti senza peccato. E vogliamo tornare sugli americani e non sui carabinieri e la mancanza di sicurezza che dà una notizia di questo tipo alla cittadinanza. Ma stiamo scherzando? Sì. Perché se erano italiane l'avrebbero fatto con le italiane, se l'avessero fatto la reazione sarebbe uguale? Ma scusate, ma perché vogliamo... Cioè, io non lo so, veramente mi sembra di stare in un incubo, no, in cui si parla delle americane che ubriacano perché è il paese loro, ma non è vero niente, bevono pure là purtroppo anche tanto. Sono decenni che si parla delle ubriacature nei college. Sì, soprattutto, esatto, nei college e università è una problematica che c'è anche ma in America. Ma c'è sempre stato, c'è da più di 50 anni, da sempre. Quindi che vuol dire? I giovani di tutto il mondo si sbronzano e si fanno il venerdì, il sabato, lo fanno. Però non per questo sono colpevole. No, ma infatti è questa l'associazione particolare, l'associazione rischiosa che è stata fatta, perché molti da lì sono passati, Veronica, a dire vedete, sono ubriaca, se si ubriacano poi non si sa che cosa succede. No, ma oltretutto non parliamo mai dei carabinieri. Garantismo per carità, è sacrosanto, che è un garantismo che poi c'è a fasi alterne, perché quando si tratta di persone che sono meno esposte dei carabinieri e quindi il danno d'immagine è meno forte, tutto questo garantismo non c'è. Esatto. Mentre, che avrebbe stuprato la finlandese. Esatto. Vediamo se la stessa reazione. No, ma lì il garantismo non c'è, ci sono le custodie cautelari, ci sono le manette preventive, in questi casi evidentemente non ci sono, quindi il trattamento non è lo stesso. Ma un altro aspetto che è interessante è la quantità di bufale che ci sono stati immediatamente subito dopo in rete, per esempio, in cui si è parlato di una quantità del 90% di denunce fasulle che si verificano a Firenze, dati che poi sono stati smentiti dal questore, e addirittura si parlava di questa assicurazione che hanno le ragazze americane come se fosse un'assicurazione antistupro ad hoc, fatta apposta per fingere, simulare uno stupro e poi farsi risarcire, quando in realtà si tratta di un'assicurazione omnicomprensiva contro le violenze, rapine, cioè che tutti gli studenti sono soliti fare, quindi anche questo fatto in qualche modo per orientare l'opinione pubblica nell'ottica di queste noi, sono due facilone che noi dobbiamo chiudere questa fase, e vorrei capire dal vice sindaco, ringraziando ovviamente Anselma Dell'Olio e Cristina Giachi, se questo temete che possa avere un contraccolpo anche, immagino ci sia, sull'immagine di Firenze, voglio dire, domani una famiglia americana potrà mandare le proprie studentesse, le proprie figlie tranquillamente quando vede che può essere che due carabinieri abbiano compiuto una cosa del genere? Noi dobbiamo fare di tutto perché questo legame si ristabilisca in modo sereno. Stamani io e il sindaco incontriamo il console americano, incontreremo, se lo vorranno, anche le famiglie e le ragazze, parleremo con i direttori delle scuole americane, proprio per fare una strategia su questo, cioè sul isolare questo fatto e non far pesare questo fatto sull'immagine di una città accogliente che da anni... Guarda, l'altro giorno, qualche settimana fa, ho festeggiato i 50 anni di un'università americana, Florida State, che è qua e che era qua quando c'era l'alluvione. Mm. E vedere quei signori di oltre 70 anni, che poi sono venuti a Firenze spessissimo, che hanno portato qua i figli, che la frequentano, quando non prendono la residenza, come si diceva prima, e non si stabiliscono qua, è veramente il segno di una tradizione di rapporti e di consuetudine e di amore per la città, che non vogliamo in nessun modo che questo fatto incrini o sporchi. Certo. Beh, oltretutto, vice sindaco, mi sembra di aver letto che voi farete una cosa importante, ovvero che il comune, qualora i fatti verranno provati, ha deciso di costituirsi come parte civile. Sì, abbiamo deciso ecco. Ieri di costituirsi come parte civile, l'abbiamo fatto anche in altri casi di stupro in precedenza, il famoso stupro di Branco alla Fortezza. Sì. E qualora ci sia rinvio a giudizio, il sindaco ha già deciso di procedere con la costituzione. Questo proprio è un segnale per questo importante. Motivo. Certo, assolutamente, di vicinanza sì. Alle ragazze, perché Selma ha ragione, non parliamo dei carabinieri. Io vorrei, però, mi fa anche un po' impressione che si parli di chi erano, della loro vita e di queste ragazze e del fatto di che cosa può essere un'esperienza di vita. Incappare in un fatto come questo possa significare. Come no? Allora, certo. Noi nel ringraziare il vice sindaco di Firenze Cristina Giachi e Anselma Dell'Olio, c'è anche un ascoltatore, Antonio da Roma. Ricordiamo che a Roma, purtroppo, tra l'altro, c'è stato, come raccontano tutti i giornali, un'altra violenza sessuale. Almeno oggi sui giornali leggerete tutti i dettagli. Antonio, che ci vuol dire su questo tema? Buongiorno. Buongiorno. Senta, io credo che tutta la questione vada scissa in due cose ben distinte, l'aspetto penale e l'aspetto carabiniere. I carabinieri sono venuti meno a tantissime cose, tipo usare la macchina come un taxi, accettare una situazione di compromissoria con queste persone. Secondo me ce n'è già abbastanza per licenziarli domani mattina. Vabbè, ma a livello disciplinare, guardi Antonio, non c'è dubbio che come dire, succederà loro qualcosa, punto di vista, ma è la cosa meno grave. Se, a prescindere se può... dallo stupro, credo che verranno sanzionati in generale. No, ma è chiaro, perché insomma, comunque hanno... guarda, ieri il responsabile dei carabinieri dell'ufficio stampa ha detto qui ci sono, come dire, ci sono due tipi di reati, quello più odioso ovviamente di cui sono accusati, la violenza sessuale, e poi hanno, come dire, violato le consegne dell'arma, quindi su questo è ovvio che hanno fallito. Hanno comunque abusato della divisa, l'hanno fatto in servizio, lo hanno fatto armati, insomma non c'è dubbio. Allora andiamo un attimo in pubblicità, poi rientriamo. Funamboli @radio24.it oppure 349 238 6666, ma i WhatsApp sembrano un po' bloccati perché non è arrivato nessuno ormai da un'ora, e quindi ma voi scrivete che poi arriverà, se noi sbloccheremo e arriverà tutto insieme. Ci arriverà. E allora chiamateci all'800 24 0024. State ascoltando un programma offerto da carserver.it. Scopri il noleggio a lungo termine che ci mette la faccia. I funamboli. Allora, siamo qui alle 9:35 minuti, i funamboli, siamo anche in diretta Facebook, cara Veronica, ricordatelo. Fai un bel sorriso agli amici della diretta Facebook, fallo ciao tu. A tutti. Eccoci qua in diretta sul canale, sulla pagina di Radio 24 e anche sulla pagina Facebook, i funamboli, ci potete trovare anche su Twitter, siamo... Com'è Funamboli24, il nostro account? Funamboli24. Indovina perché Funamboli abbiamo messo 24 dopo. Non lo so, non riesco a immaginare. Ci sono 24 funamboli qui? Secondo me quando ti faccio dei quiz sul calcio è meglio. Lì è più facile. Che lì posso sbizzarrirmi, capito? Siamo su Radio 24, signori! Alle 9:36 minuti vogliamo raccontare la storia di una piccola isola che Veronica conosce molto bene, frequenta, tutti i bar di Ventotene la conoscono. Bazzico, tutti i bar dell'isola. Sono... Ventotene, che isola è? Lo chiedo a te prima del nostro ospite. È un'isola veramente molto molto bella che si trova a sud del Lazio, abbastanza vicino a Ponza, nel Mar Tirreno. Mm-hmm. Ed è un'isola veramente veramente molto bella. È un'isola in cui c'è il famoso carcere di Santo Stefano, dove venivano mandate le persone al confino, e dove poi c'è, insomma, la famosa isola del manifesto di Ventotene, dove Altiero Spinelli, Rossi e Colorni scrissero il manifesto per un'Europa libera e unita. Quindi è un'isola anche piena di storia, molto bella, devo dire abbastanza selvaggia, quindi non è di quelle isole piene di turismo in cui uno dice ah, però si è sradicata, ha perso completamente la sua natura. È un'isola che è rimasta molto legata a se stessa. Dove io sono stata anche quest'estate, ti vabbè, devo insomma, rivelare. Devo dire che salutando il sindaco di Ventotene, le presento, caro sindaco Gerardo Santomauro, la responsabile della Proloco di Ventotene, Veronica Gentili. Sono assunta sindaco? No, che sai, io mi porto avanti, perché, insomma, che qui mi guardo intorno, vedo chi c'ho davanti a me, dico meglio che mi comincio a cercarmi dopo una presentazione del genere. Ci dica un lato negativo di Ventotene, caro sindaco Santomauro. Uno, così, non so, ci sarà un angolo di cemento buttato lì tra una baia e l'altra? Non ci sono problemi di abusi edilizi? Un cassonetto un po' sporco? No, non lo so. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, caro sindaco, noi in realtà l'abbiamo chiamata per un tema molto, molto serio, che impatta anche con forse la questione che più ha tenuto banco quest'estate, più terrà banco anche in campagna elettorale, perché si sa, è pieno di sindaci che dicono qui i migranti non ne vogliamo più, qui sono troppi. Sa che anche il Papa ieri ha detto questa frase dicendo qualsiasi governo deve anche contare i posti, insomma, fare una politica accogliente, ma anche dire vediamo quanti se ne possono accogliere. Lei, sindaco, ha invocato l'arrivo dei migranti a Ventotene, ce la spieghi? Cioè, ha detto io ne vorrei di più, perché? Beh, sì, diciamo che l'invocazione nasceva da una preoccupazione, che la scuola media in particolare, avendo soltanto una luna e poi nel tempo ne è arrivata un'altra, quindi oggi due. Potesse non riaprire i battenti. Per fortuna questa eventualità è stata scongiurata, perché finalmente dopo un confronto piuttosto, diciamo così, duro con l'istituzione scolastica, siamo riusciti a far riaprire la scuola. Aspetti, sindaco, oggi... che diamo due dati per chi ci ascolta, però, perché a Ventotene d'inverno ci sono all'incirca 200 persone, se no non abbiamo le proporzioni chiare, di cui io ho letto, mi corregga se sbaglio, 19 bimbi e 2 alunni, abbiamo detto, alle scuole medie e 8 bimbi alle scuole elementari, esatto? Esatto, esatto. Perfetto. E quindi insomma, e il rischio, non c'è una rischio, scuola superiore. Esatto, il rischio è di... Non c'è una scuola superiore. Il rischio è che si esauriscano. La chiusura. Ecco. La chiusura. Sì, l'anno prossimo, infatti, questa è la prospettiva sicura al 100% l'anno prossimo, perché le bambine che oggi frequentano la terza media, terza media usciranno, non c'è la quinta elementare, non verranno rimpiazzate. E quindi lei, sindaco, perché ha trovato, ha fatto questo appello e vede nei migranti una possibile soluzione? Beh, noi avevamo vagliato tutte le possibili ipotesi. L'importante, come un sindaco ha il dovere di far funzionare l'istituzione del proprio comune. E quindi l'importante era tenere la scuola aperta e non abbiamo escluso anche quello di accogliere dei bambini in età scolare che se fossero migranti o figli di... Ma cosa ha fatto? Lei ha chiamato il ministro dell'interno, ha chiamato Minniti, ha posto il problema? No, nulla di tutto questo, perché un sindaco deve tener conto della popolazione, cioè non possono essere prese queste iniziative e presi i provvedimenti senza aver consultato la popolazione. Siccome non vorremmo trovarci l'anno prossimo di fronte al problema certo, senza averlo discusso con la popolazione, perché è chiaro che questo tema crea ovunque discussione in Italia, Ventotene non è esente da questo punto di vista. Certo. Però io credo che un sindaco, un politico, debba fare in modo che non dall'oggi al domani mettere i cittadini di fronte al fatto compiuto, ma con loro fare un discutere, discutere, no, anche perché il sindaco non tutti saranno d'accordissimo. No, infatti, ma prima di arrivare alle polemiche qualche polemica c'era, lei aveva anche un'idea, ho letto, particolarmente interessante, che era quella di ospitarli all'interno di questa casa di riposo in cui avete degli anziani, per farne una sorta di virtuoso modello di casa famiglia in cui si dà ospitalità a chi ha bisogno e nel frattempo queste persone aiutano gli anziani, esatto? Esatto, cioè noi ci troviamo paradossalmente in una situazione in cui abbiamo una scuola bellissima, con delle aule attrezzatissime, aule didattiche, piene di computer, e sono vuote. La stessa sorte la condivide la casa alloggio per anziani, che per la metà è vuota, quindi il piano superiore è formato da stanze con i bagni, bellissime devo dire, quasi di lusso, e sono vuote. Allora veramente è un peccato vedere tutto questo vuoto, la scuola, la casa alloggio, abbiamo pensato di utilizzarla per raccogliere questi bambini e quindi trasformare la casa alloggio in una, proprio come diceva la tua collega, in una casa famiglia. Ma le polemiche dove stanno allora? Chi è che non è d'accordo? Insomma, non tutti li vorranno i migranti. Sì, le polemiche ci sono, perché guardi, più che polemiche direi che è un po' il risentimento della popolazione che si sente un po', si è sentita per anni abbandonata. Certo. Dice noi non abbiamo, perché un'isola non è facile, bisogna dire questo, non si trovano gli stessi agi, ma non parliamo di comodità, parliamo dei servizi come il medico, il pediatra, purtroppo è così. Io sono al comune da pochi mesi e devo riconoscere che questa è la situazione, non c'è il pediatra che viene con regolarità, non ci sono i servizi, la scuola diciamo è al minimo, non si fa lo sport, non si fa attività. No, ma è chiaro il problema, diciamo, di tutte le isole piccoline, anche un po' isolate, ecco, come poi siete anche in pochi, purtroppo, o non so, forse siete felici in 200 in inverno. Però sindaco, la ringraziamo, perché dobbiamo dare spazio agli ascoltatori, al traffico. Gerardo Santomauro, sindaco di Ventotene, vedremo insomma se sarà accolto questo appello. È una proposta che lui ha lanciato per cercare di contrastare più che la dispersione scolastica, qui proprio la fine possibile, anzi certa, delle medie. Sindaco, tanto il problema è risolto, perché dopo lo spot che ho fatto su Ventotene vedrà che non c'è più problema, adesso accorrono in massa. Abbiamo la presidente della Pro Loco, non sappiamo più dove metterli tra un po' a scuola. Dai, intanto andiamo a Firenze ancora, tanti ascoltatori da Firenze, c'è Alessandro che ci chiama, buongiorno Alessandro da Firenze. Eccoci, ci sente? Benissimo. Bene, dica. Ma io ho telefonato per esprimere quello che è successo, disappunto a Firenze, nella mia città. Io da poco ho smesso di fare il tassista, dopo una rapina non mi sono sentito più in grado di poter continuare a fare il mio lavoro, però ho vissuto questa movida violenta e uscendo qualche volta la sto vivendo ancora. Nessuno si può rendere conto di quello che è Firenze durante la notte. Si parla, ma viverla è un altro discorso. E quello che è successo con i carabinieri è lampante la cosa. Quindi la colpa, volevo dire, che è un po' di tutti, soprattutto delle istituzioni, che non hanno potuto controllare questa cosa. È scappata di mano. Ma ho capito, ma più istituzioni dei carabinieri, chi vede, Alessandro? Cioè, quando si dice le istituzioni, lo Stato, in quel momento lo Stato sono i carabinieri che sono intervenuti. No? È pazzesco. Proprio per antonomasia, le istituzioni, lo Stato, la divisa, sono i carabinieri. Comunque lei, Alessandro, ci dà questa testimonianza da tassista. C'è Domenico anche da Firenze, prima del traffico. Domenico? Sì, io sono d'accordo con l'intervento che ha fatto l'ascoltatore precedente. Sì. E devo dire che i carabinieri è vero che rappresentano lo Stato, ma non possiamo, come per il discorso di alluvioni, tutti i problemi di questo paese, dare poi... E non inquadrarli in un contesto più generale che dovrebbe, risolvendo i problemi, si potrebbe evitare poi tutte queste situazioni con politiche diverse. A Firenze è stato sottovalutato dall'amministrazione comunale, perché a parte i carabinieri, i regolamenti e il controllo del territorio deve fare anche l'istituzione locale, il comune. E non è poi che il vice sindaco si pianga addosso, si stracci le vesti e faccia testimonianza di solidarietà con queste due turiste. Il problema è che Firenze, come diceva l'ex tassista di prima, non è più sicura, è diventata un luogo invivibile, dove quando c'è stato il fine settimana, il sabato sera, non hai idea che cosa sono le strade e le piazze di Firenze. Ma sa, però, Alessandro, io vivo a Milano, Veronica vive a Roma, non credo che sia una città rispetto a Firenze idilliaca da questo punto di vista. Ma mi sorprende weekend, anche perché al ridosso di questa vicenda moltissimi stanno parlando di Firenze come una città dai costumi dissoluti in cui succede qualsiasi cosa. Probabilmente nel weekend è così, cioè nel senso che se tanti ci raccontano questa testimonianza, ma guardi, anche se va vicino a Corso Como a Milano, ci sarà Roma, ci sono zone di Roma. Dove purtroppo nei weekend la gente beve. Vabbè, però c'è il traffico e soprattutto ci chiedono se WhatsApp è settata per l'orario d'arrivo di Leonardo Manera, perché da adesso funziona effettivamente, tutto a posto. Non lo so se è questo, se è l'arrivo di Manera che ci sblocca WhatsApp. In ogni caso andiamo al traffico e poi vedremo. Insomma. Era questo. Mamma mia, non ce la faccio più, non ce la faccio più! E datemi questo benedetto traffico! Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta I Funamboli. Allora, i carabinieri, se colpevoli, vanno processati e condannati. Ma smettiamolo con questa storia, ma lo fanno anche gli italiani. Ma a casa nostra è normale che ci siano i delinquenti nostrani, no? Sentivo la paura che gli americani possano non venire più nelle nostre università. Gli americani amano l'Italia e continueranno a venire sia a Firenze che in tutta Italia che nelle nostre università. Eccomi Milan, rispondo alla chiamata. Eccomi, WhatsApp attivo. Fantastici. Vedi, abbiamo i tecnici, gli ascoltatori tecnici hanno controllato e vedete che è attivo WhatsApp. Adesso, vedi. Allora, però noi Veronica qui ai Funamboli siamo una trasmissione straordinaria, perché gli ascoltatori non li abbiamo solo all'800240024, ma ogni tanto li ospitiamo anche in studio. È venuto a ritrovarci a questo proposito Battista da Cavaillon Veronese, che era venuto la settimana scorsa. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori da Funamboli, sono Battista da Cavaillon Veronese. Salve gentile, anche qui saluto Mina, Alessandro Mina. Milan e gentili. Prima ho ascoltato il sindaco, adesso no, il sindaco dei 28 anni, che dice di accogliere gli extracomunitari, quel sindaco. sindaco dei 28 anni, no? A parte che è giovane, è già uno che fa il sindaco 28 anni, anche aspetta di prendere un po' più esperienza. Ma no, 28 anni. Ma fare sindaco quando hai 50, se no 28 anni, vergogna! E poi voi che gli davate ragione, coda. Ma anche ma... voi volete mettere in politica anche tu, Mina, vuoi fare un marchettone? Hai fatto un marchettone col sindaco dei 28 anni, capisci, Mina? È un'isola, ma il sindaco quando sei più grande, no, 28 anni, vergogna. Io poi dite di accogliere extracomunitari, non ho niente contro extracomunitari, ma in Italia diventati troppi. Fuori da ogni bar c'è extracomunitario che ti chiede moneta, poi c'è il barbiere cinese, c'è l'Asian Bazaar, nei parchi pubblici c'è peruviani che fai grigliate, i barbecue peruviani, tolgo un posto ai barbecue italiani e così, Mina. Sì. E poi va in moda i ristoranti etnici, no? E settimana scorsa sono andato in ristorante egiziano, si mangiava anche bene, ma aveva le sedie a forma di piramide. Aia. Capisci che è troppo scomodo, allora... capisci, Mina, gentile? Sono passato da Milano settimana scorsa per trovare il ristorante tipico milanese, sono dovuto andare nel ristorante etnico italiano del quartiere cinese di via Paolo Sarpi, ma capisci che non si può andare avanti così, Mina? Milan, vabbè, sì, lasciamo stare. Smettere di fare marchettoni con i politici, Mina. 28 anni, ormai vabbè. L'Italia finisce come i campi di calcio, che le squadre di calcio è piena extracomunitari che stanno sul prato a giocare, a divertirsi, e tutti italiani lì scomodi sulle seggioline senza partecipare. L'italiano paga il biglietto, extracomunitario sta sul prato, gioca, si diverte e viene pagato, bisogna dire queste cose, Mina. Lo sta anche dicendo, te, tanto purtroppo. Gentile, tanto onesta, pare, ma poi anche a te sei da parte extracomunitari, Mina. Tu che sei italiano, vai in campo a chiedere uno di quei extracomunitari che gioca se te fa spazio. Lorenzo Nespoli l'hai fatto entrare tu. Nespoli, no, no. Nespoli è amico di extracomunitari, vergogna. C'è un servizio di sicurezza qui, no. Allora, io non ho niente contro extracomunitari, ma se Dio voleva che in Italia c'erano gli africani, in Trentino non metteva le mele, metteva le banane. Hai capito, Mina? Anche questa situazione. Che poi è stata la Laura Boldrini a portare extracomunitari in Italia. Prima della Boldrini in Italia extracomunitari non c'erano. Niente. È lei che ha inventato extracomunitari, la Laura Boldrini. Allora io dico, Boldrini, visto che sei tu che hai inventato extracomunitari, almeno portane qualcuno dentro al Parlamento, che tanto africani è abituati a non lavorare con i tuoi colleghi politici, si trova bene, capisci, Boldrini? Siamo un po' al qualunquismo. E poi per finire, no, è qualunquismo, è la situazione delle cose, sei tu che sei comunista, amico degli extracomunitari. Gentile, onesta, pare, dico magari. Ultima cosa, i politici è discutibili, non c'è neanche più uno che mi piace, neanche il segretario della Lega Salvini, che sta sempre a fare le foto a torso e nudo sui giornali del gossip, tra un po' non fa più segretario della Lega, va a fare il tronista uomini e donne Salvini. Allora io dico una cosa per concludere, prendiamo tutti gli extracomunitari, facciamo un partito di extracomunitari, ogni tanto ne prendi uno, lo metti in Parlamento, con quello che guadagna può mantenere tutti gli altri e italiani onesti possono continuare a lavorare senza che extracomunitari toglie lavoro. Io la penso così. Parola De Battista da Cavaillon Veronese. La sicurezza chiamate sicurezza. Subito e portate via Leonardo Manera, signori. Buongiorno a tutti i funamboli anche da parte mia. Oggi porta un caschetto alla Valentina, ve lo dico. Sì, veramente dovete andare su Facebook a vedere, perché assolutamente. Ma prima ti sei arrabbiato, prima era in diretta, sei arrabbiato. Sì, c'è sì, gente sì, che ha scritto, sei arrabbiato, ha lanciato tutto, mi sono d'accordo con la telefonata dell'ultimo ascoltatore. Smettiamo di dire ci sono anche gli italiani, perché insomma secondo me in generale per tutti è meglio se, al di là del fatto che i carabinieri hanno fatto una cosa schifosa, un reato, e l'abbiamo detto più volte, detto questo è anche meglio se non ci si sfonda di alcolici a prescindere dallo stupro, che si sia italiani, stranieri eccetera eccetera, proprio un discorso a parte. Quindi ecco, cerchiamo di non ammazzarci di alcolici e di altre cose a prescindere dalla nazionalità, direi così. Comunque, Battista Cavaillon Veronese lo facciamo entrare anche la terza volta, o pensi che possiamo bloccarlo all'entrata con della sicurezza? No? Perché anche Battista mi sembra che, come dire, sia un ma po'... Ma tu quando ti arrivi a casa, Battista, che fai? Ma io la penso come lui, quindi mi trovo... andate d'accordo! Ma allora noi non dobbiamo andare via Manera. Sicurezza! Guarda che c'è qui Giorgio da Milano che ci chiama, eh? Buongiorno, Giorgio. Sì, buongiorno, grazie per avermi fatto intervenire. Ritengo che due carabinieri in servizio... soprattutto in servizio, vorrei sottolineare, che accompagnano due ragazze a casa modello taxi, hanno già in mente qualcosina. Quindi la responsabilità, io questo non lo capisco. Sappiamo, non facciamo il processo. Va bene, diciamo. Vedremo, ci sono le aule dei tribunali. Ma questa ha perfettamente ragione, sono andato un passo avanti. Ma il discorso è questo, si dà la colpa a Firenze, città degradata, gli americani bevono, come diceva prima la Dell'Ogli, tutta una serie di problemi. Però qui abbiamo due persone che hanno accompagnato sulle scale due ragazze di almeno 10-20 anni meno di loro, perdonatemi, passatemi, si sono calati i pantaloni, hanno fatto quello che dovevano fare, la responsabilità. Forse, vediamo. Più, almeno questa responsabilità sia loro. No, ma è chiaro, sì, ma no, certo, ma su questo no, mattina forse non è vediamo, che non sia no, stato nel senso detto. Che i pantaloni se li sono calati, lo sappiamo. Uno sicuramente anche l'ha ammesso. Quello non c'è, nel senso poi la forma, i modi vanno accertati. Io non so, una delle cose che non abbiamo detto e che secondo me andrebbe anche rilevata è che le forze dell'ordine comunque incutono timore ad una ragazzina che ha bevuto e che probabilmente ha anche fumato hashish, quindi anche questo è uno degli aspetti, cioè abusare del potere della divisa è anche questo, oltre all'arma, avere un'arma. Dobbiamo andare al giornale radio, la seconda ora di Funamboli, subito dopo. Il segnale orario vi è offerto da... Il mio piatto migliore. Quello grande, per le pizze Roncadin. Roncadin, nel banco freezer. State ascoltando un programma offerto da... Carserver.it. Scopri il noleggio a lungo termine che ci mette la faccia. I funamboli. Era l'una in punto. Quello strano rumore però continuava e insieme si sentiva chiaramente un rumore di passi. Così l'ambasciatore si infilò le pantofole, prese una fiala dal borsello da toilette e aprì la porta. Proprio davanti a sé vide, nella pallida luce della luna, un vecchio dall'aspetto terribile. I suoi occhi erano rossi come carboni ardenti, i lunghi capelli grigi gli ricadevano sulle spalle in lunghe ciocche sparpagliate. L'antico abito che indossava era sporco e strappato. E dai polsi e dalle caviglie gli pendevano pesanti manette e catene arrugginite. «Egregio signore», disse il signor Otis, «le devo chiedere gentilmente di oliare le sue catene. Le ho portato a tal proposito una piccola fiala di lubrificante Sole Tammany. Dicono che sia molto efficace già con una sola applicazione. Glielo lascio qui sul tavolo, vicino alle candele della camera da letto. Sarò felice di fornirle un'altra fiala qualora ne avesse ancora bisogno». Detto questo, l'ambasciatore americano chiuse la porta e tornò a letto. Per un attimo, il fantasma di Canterville restò senza parole, tanto era indignato. Poi, con rabbia, scaraventò la fiala sul pavimento e scappò per il corridoio, lanciando grida cavernose ed emettendo una spettrale luce verde. Mai, in tutta la sua plurisecolare carriera, era stato così pesantemente insultato. Dal fantasma di Canterville allora di un giorno. Siamo un programma culturale allora. Anche. Cioè, non capito, no? No, vedendo i soggetti non avrei mai pensato che e potesse vedi? Essere così. E quando uno dice l'apparenza inganna, l'essenziale invisibile agli occhi. Oh, caspita, qui siamo ad altissimi livelli. Giovane... Quindi dobbiamo abbassarli questi livelli. Esatto, un giovane Oscar Wilde che racconta il fantasma di Canterville. Perché sì, ebbene sì, vi parliamo di fantasmi. Tu, caro Leonardo, credi ai fantasmi? Un po' sì. Tu, Veronica? Cioè, credi agli spiriti, mettiamola come vuoi, agli spettri, ai vampiri, che ti devo dire? Non saprei dirti. A presenze altre. Quando ero bambino, scusa. Un po' scettica. No, vai caro. Quando ero bambino, vicino a casa mia c'era una casa abbandonata e ogni tanto con mio fratello andavamo proprio alla ricerca di fantasmi ed eravamo terrorizzati ogni volta che entravamo. E li hai visti? Li avete visti? No, però sentivamo dei rumori e pensavamo che fossero dovuti ai fantasmi. In ogni caso, di questo parliamo oggi nella nostra... rubrica Il funambolo del giorno, che è Massimo Merendi, che saluto e ritrovo con piacere. Già ci siamo conosciuti. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Allora, Massimo Merendi, ma forse nella casa c'erano dei topi. Eccolo lì. È detto da uno che noi presentiamo come acchiappa fantasmi. In realtà non è proprio come proprio dire così. La professione, però è affondato insieme ad altri. Che cosa, Merendi? La National Ghost Uncover, che ha una trentina di gruppi in Italia appunto per studiare il fenomeno. I fenomeni paranormali. Ma abbiamo un 40% che non ci crede assolutamente. È per questo che le ho detto dei top. Ma quindi lei è l'uomo più scettico del mondo, che crede meno? No. Io rappresento tutti quanti e a modo mio ho avuto esperienze, però devo rappresentare correttamente tutti. Perché il bello del National Ghost Uncover è che ci sono anche molti soci fondatori, il 40% che non crede assolutamente ai fantasmi. Sì. Ma non crede a niente. Non crede a niente. Ma come mai non credono e aderiscono a questa associazione? Come funziona? L'associazione che è nata dopo colloqui con amici inglesi che mi chiedevano: ma voi in Italia non avete mai fantasmi? Io dissi: ma abbiamo delle gran case stregate, perché purtroppo soprattutto nel nord Italia, guardi lei in Valtellina, per non parlare dei cantoni svizzeri, i roghi sono stati tantissimi, ma tanti veramente. Però allora dissi: beh, la possiamo fondare, studiamo la cosa. E con nostra grande sorpresa, al di là di fare dell'archeologia su cose che avevamo così in mente, abbiamo avuto migliaia, dal 30 gennaio del 2010, più di 2000 segnalazioni di ogni tipo. Ecco, ma vediamone alcune, perché voi non ci crederete, ma questo è un tema, per esempio, che a Roma, in Campidoglio, è stato trattato. Io ricordo che il sindaco Alemanno chiamò proprio degli acchiappa fantasmi per vedere se esiste davvero questo spirito di un frate per il Campidoglio. No, ma è una cosa verissima. A Udine pare che sia comparso Napoleone. Questo almeno eravamo noi a Udine, c'eravamo proprio. L'avete beccato? C'era Napoleone? Abbiamo però beccato un meraviglioso Luigi d'Oro che avrebbe lasciato il fantasma. Però lei dice che ha avuto anche delle esperienze personali. Purtroppo, ecco, lei è una persona malvagia, perché mi ricordo, no, perché io amo parlare, a volte anche in maniera sarcastica, ma sempre con rispetto, di tutti gli altri. Ho avuto un'esperienza, in particolare sul Lago Maggiore, dovuta, di cui abbiamo fatto anche foto, e qui a gennaio, nel secondo anniversario, faremo anche una mostra in cui sarò coinvolto in prima persona, perché tra i testimoni di questa situazione ci sono stato anch'io con il mio gatto. Cioè, con il suo gatto? Certamente. Che può testimoniare? Cosa è successo? Ma il gatto, diciamo, che è quello che si è accorto più di me. Ma di che cosa? Cioè, cosa avreste visto? Allora, è una cosa complessa, gliela dico veloce. Dopo 4 giorni di gelo sul lago, io amo i climi torridi, le estati lunghissime, si figuri, sul lago in gennaio febbraio. Quindi già dubitiamo un po' delle sue capacità percettive dopo 4 giorni. Ma no, io non faccio uso di nessuna sostanza psicotropa. No, parlavo del freddo nello specifico, non azzardavo. Ero vestito in una maniera tipo il cacciatore di sfida White Buffalo, ecco, ero messo così. E a un certo punto sull'imbarcazione ormeggiata, io, il fotografo portoghese, gli altri dormivano fortunatamente, il mio gatto mi è saltato sulla spalla, l'eroico Balù, e anche il mio gatto, pensiamo di aver visto questa cosa che si avvicinava velocemente, e io addirittura mi sono tolto un guanto e l'ho toccata, e questo è ancora più grave, ed è scomparsa lì, ecco. Ma cos'era? Cioè, quindi senza scie. Ma cos'è? Cioè, questa cosa? Allora, diciamo, era questa creatura fantasma dal collo lunghissimo, noi l'abbiamo chiamata Maggie, per fare il verso a Nessie, il famoso. Sì, il famoso è carino Maggie, però. Maggie, sì, perché il Lago Maggiore sono stato io. Sta ma bene, in realtà Maggie, l'abbiamo chiamata Maggie, perché Maggie, proprio Maggie. E così faremo una mostra di quello che ha scattato a sua assoluta responsabilità, La foto di Maggie. Con macchina fotografica, non di quelle computerizzate, ma di quelle a impressione sulla pellicola. L'amico Melo, allora, portoghese, facciamo così, perché c'è il traffico. Poi rientriamo con Massimo Merendi e con questo dubbio che lasciamo a tutti gli ascoltatori. C'è nel Lago Maggiore un mostro di Loch Ness autoctono? Mi raccomando, chi guida, attenzione ai fantasmi. Tra poco. Il mio piatto migliore. Quello grande, per le pizze Roncadin. Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta I Funamboli. Allora, Massimo Merendi, National Ghost Uncover, voi scherzate, ma mi aveva raccontato una volta che ad Arezzo si aggirerebbe Cagliostro, a Firenze Lorenzo il Magnifico. No, ma a Roma Giulio Cesare. A Bari Federico II, a Modena Matilde di Canossa, cioè tutte segnalazioni che vi arrivano, Merendi. A Roma ultimamente siamo andati anche al Colosseo per Marilyn Monroe, che non è mai stata in vita sua in città. Ah. Marilyn Monroe. Ma voi che fate? Cioè, arrivate ma come eravate lì? Figli su un aereo fantasma? Da... Non sappiamo. Ma noi quando riceviamo queste segnalazioni, ovviamente prendiamo, dopo che sono avvenute copiose, non una, prendiamo appuntamento con tutti questi personaggi a cui chiediamo ovviamente una fotocopia di un documento per verificare noi con discrezione che non si conoscano tutti, che non è un reato, che non siano tutti parte di una stessa associazione, gruppo esoterico, partito, ma che non vi prendano in giro, che non vi prendano in giro, ecco. Che... ci hanno provato alcuni eroici con il cane fantasma Orvieto, sono stati molto bravi, molto bravi. Vabbè. Il cane fantasma. Però alla fine... Vabbè, voi arrivate, allora, arrivate. No, ma come arrivate? Sì. Nel senso, arrivate fate? Vestiti come i RIS, con i camici, cioè siete no, la scientifica, no. Siete... Come quella... siete? Quella è la parte finale a uso proprio fotografi e TV. Ah, altrimenti per fare un po' i personaggi. Possono pensare che in un luogo c'è un attacco NBC, nucleare, chimico, batteriologico. Certo. Ecco. Abbiamo degli strumenti, ma gli strumenti, che ne dicono anche alcuni miei soci, lo dico con onestà, non servono a dimostrare fantasmi. Non esistono strumenti. Qui lo dico prendendomi proprio tutte le responsabilità. Non esistono strumenti scientifici atti a dimostrare la presenza di questi esseri. Ah, quindi ecco. Tutti gli amici che fanno foto di campi elettrici, elettromagnetici, sono inventati, li facciamo anche noi, ma vengono, ma non sono trucchi, ma non si, sono tutt'altre cose, non significano niente. Però quindi lei questo, ha un approccio anche un po' scettico. Se non cioè significano un niente, sostanzialmente tutto è inutile. No, no, questi strumenti a cosa ci servono? Ci servono unicamente per verificare che non ci siano interazioni empiriche. È successo a Milano che in uno stabile, in una grondaia, si sentivano voci e cose strane e non c'era niente di collegato, ma era la rifrazione di un colossale ripetitore, eccetera. Quindi possono, ecco, noi gli strumenti li usiamo a esclusione. Una volta che sono escluse cose empiriche, questo non significa che i testimoni sono tutti ubriachi o esaltati, anzi, il più delle volte i testimoni sono persone normalissime che non vedono fantasmi tutti i giorni, i più non credono assolutamente a questo. E allora andiamo a indagare se però anche in noi, tutti questi anni un fantasma è stato visto a quando siete arrivati oppure abbiamo con obiettività quindi sì, obiettività. Con obiettività in alcune situazioni abbiamo fatto riprese di ombre che non avevano ragione d'essere con rifrazioni luminose, ma questo non significa che siano fantasmi, però abbiamo alcune cose sonore che strane. Non avrebbero a cui non abbiamo ancora dato una spiegazione. Veronica che Massimo Merendi mi ha raccontato una volta che ci sono anche i vampiri. Abbiamo quattro segnalazioni di vampiri, ma la cosa più bella nel menù. Voi avete sede a Milano? Sì. Ma io l'ho letta questa cosa di un giornalista licantropo. È a Milano, come vostra grande soddisfazione, avete una persona molto nota nel campo del giornalismo, ecco, che appare anche in TV, e tre sue colleghe, pensavamo fosse uno scherzo, se lo hanno segnalato niente meno che come licantropo, spero non abbiano provato. Ma noi non abbiamo delle prove di questa cosa? Beh, ha bisogno interrogare queste tre. Ho capito, ma se non ci dice chi sono queste tre, se non ci dice chi è il giornalista. No, non diciamo né chi sono queste tre né la testata notissima. Ma Merendi, lei ci deve regalare uno scoop, non può farci questo. Giornalista famoso che va in TV, licantropo. Beh, comunque se sono solo tre è una gran notizia, pensavo più giornalisti vampiri ma e licantropo. No, è uno, le tre hanno fatto la segnalazione, per ora è uno solo. Noi abbiamo pensato a uno scherzo. Però le tre le abbiamo incontrate, di cui una veramente impaurita, o era una grande attrice che recita, e noi abbiamo preso la cosa. Vabbè, che cosa fa un licantropo per intanto impaurire? Esce dalla redazione la sera a Baia alla Luna, no? Nelle notti di luna ma piena. Ma questo non lo e so dire, bisogna meno. Vedere se sono mancati dei redattori in alcune notti di luna piena, che non hanno dato più notizie di loro. Ecco. Vabbè. E da adesso bisogna guardarsi intorno. Ma lei mi esclude che si tratti qui del Sole 24 Ore? sa, vogliamo stare... un notissimo giornale. Sento che un silenzio Milano. Sospetto ma... davanti no, al Sole 24 ore. No, glielo posso, no. Allora le posso dire. Non è un... voi siete un giornale finanziario, sì, non sì. È un giornale finanziario. La... Tra l'altro la finanza è rimasto l'unico luogo in cui c'è libertà. I fantasmi non passano. No. Dove c'è sono come i fantasmi. La finanza vive in un mondo che supera la fantasia e il sogno. Quindi uno dei pochi luoghi al mondo dove esiste la libertà e dove tutto si fa. Ci sono anche degli incubi ogni tanto. Ma... E quindi è uno dei pochi luoghi liberi, pieno di corsari e ahimè anche di pirati, però... Però niente licantropi, però, insomma, niente almeno fantasmi. Rimaniamo così. Massimo Merendi, noi la ringraziamo. Avrei detto che la finanza era il luogo dove si succhiava più sangue che in tutti gli altri, sinceramente, invece sembra di no. Sembra di no. Dai, le 10:24 minuti! Ragazzi, qui non so, magari abbiamo anche un po' scherzato, sicuramente la figura di Massimo Merendi, no? È anche un po' evocativa, ci porta alla celia, allo scherzo, ma quello che dobbiamo raccontare adesso invece è ciò che un consigliere regionale in Abruzzo propone in maniera serissima. Si tratta di Leandro Bracco. Buongiorno caro Bracco e grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Consigliere regionale Abruzzo. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Propone tante cose, come i consiglieri fanno proposte di legge eccetera. Una di queste ci ha colpito: creare una task force contro il maligno. Ecco, viene titolato così, contro Satana, contro il diavolo, come la vogliamo mettere. Ma questo ha proposto lei concretamente? Allora, innanzitutto non è una proposta di legge, ma è un invito a costituire appunto una task force, che è un gruppo di esperti incaricato di fronteggiare particolari questioni, appunto perché a mio parere nel Teramano, quindi appunto in provincia di Teramo, il satanismo io credo che sia diventato un'emergenza in base a quattro avvenimenti che sono accaduti a partire da settembre di 2 anni fa, primo settembre del 2015, fino al 10 agosto scorso. Che è successo? Questi episodi quali allora, sono? Innanzitutto il primo settembre del 2015 ci fu un evento tragico, ci fu la morte di Giulia Di Sabatino, che è una ragazza che proprio quel giorno compiva 19 anni e che... si è tolta la vita, dicono che si sia suicidata, cosa alla quale io non credo, gettandosi da un cavalcavia, e poi tra l'altro il corpo è stato dilaniato da tutte le autovetture gli autoarticolati che transitavano appunto in autostrada. Tra l'altro, notizia di proprio di stamattina, il GIP del Tribunale di Teramo ha respinto la richiesta del PM di archiviare il caso come suicidio e ha stabilito che le indagini debbano essere riaperte. No, anche perché comparve una scritta, grazie per esserti donata, insomma sì, ci sono, cioè c'è questo problema del satanismo, però colpisce un po' che lei proponga una task force. Che faccia che cosa esattamente? Una task force che vada ad approfondire queste questioni, perché basterebbe diciamo leggere, documentarsi, ad esempio appunto leggendo qualche libro di quella persona straordinaria che è stata Monsignor Gabriele Amort, che purtroppo, ci ha lasciato esattamente il 16 settembre dell'anno scorso. Forse il più grande esorcista o più famoso esorcista. Esatto, che nell'arco di un ventennio ha praticato qualcosa come 50.000 interventi. Ma è compito di un consigliere regionale, io questo lo capisco, cioè non è materia di religione, è materia di preti, materia di... A mio parere no, per il fatto che qui c'è di mezzo la sicurezza della collettività, quindi un consigliere regionale io credo non ha solamente il ruolo di occuparsi di economia o di finanze ma anche del maligno. No, semplicemente non è il fattore del maligno, è il fattore che qua c'è di mezzo la sicurezza delle persone, dell'ordine. Ma per la cosa vorrebbe fare? Smantellare i credi satanici, satanistici e cercare di portare alla luce quelle che sono delle lobby occulte di Satana? Cioè, qual è l'obiettivo? Ma ci sono i carabinieri, ci sono la polizia, cioè se c'è un reato, è questo che non capiamo, cioè l'aspetto politico di questa vicenda. L'obiettivo è quello di approfondire una questione verso la quale, a mio parere, gli attori, tra virgolette, che devono essere protagonisti di questa task force non sono solamente le forze dell'ordine, ma anche il vescovado, anche i sindaci dei comuni nei quali si sono verificati questi accadimenti, quindi Giulianova, Tortoreto, Civitella del Tronto, tutti i comuni che appunto fanno parte della provincia di Teramo. Ma tra l'altro, se mi permettete di dire una cosa, quando alcune settimane fa, anzi 16 agosto scorso, è uscito il mio comunicato stampa, dopo pochi giorni il priore della Basilica della Madonna dello Splendore di Giulianova ha confermato la mia tesi, e tra l'altro si chiama Padre Simone questo priore. Io vi vorrei leggere quelle 5 righe che appunto Padre Simone... Beh, insomma, adesso per farvi capire una ma cosa... Ma sì, ho capito, ma è materia appunto, è un priore, quindi può essere anche sensibile all'argomento. Cioè, quello che a me ancora rende un po' perplesso è perché un consigliere regionale si debba occupare di questa vicenda. Però vedo invece un Leonardo Manera che è convintissimo. Leonardo Manera, sì, che è qui a fianco. Mi sembra un ruolo sociale quello che voi volete avere più che altro, no? di togliere questo satanismo diffuso, esatto, che ci sarebbe lì in Abruzzo. Cioè, lei è sicuro che non voleva fare il prete nella vita? Questo voglio dire. Ma guardi, a me spiace, diciamo, che lei la mette un po' così, un po' sorridere. No, io non è sorridere, veramente. Sono un po' perplesso. Guardi, io sono profondamente credente. E profondamente, non c'è niente di male in questo. Profondamente credente e ne vado orgoglioso. Però non le ripeto, io credo che un consigliere regionale debba occuparsi, per quanto è nelle sue possibilità, dei problemi che affliggono la collettività o comunque delle questioni delicate. Quindi, al di là della sanità importantissima, delle infrastrutture, delle nuove tecnologie, eccetera, c'è anche questo per lei. Io credo che ci sia, credo convintamente che anche questa questione debba essere trattata e la polvere non messa sotto il tappeto, ma affrontare la questione con quanta più serietà e competenza possibile. Comunque lei è abbastanza in ascolto di quelle che possono essere delle esigenze anche pratiche delle persone. Leggevo che lei propose di mettere un distributore di preservativi per esempio nelle scuole, che propose di regalare delle biciclette al posto dei pasti alle persone bisognose. Non è così, signora, non è così. Allora, per quanto riguarda le biciclette, allora, visto che nei 305 comuni che formano la regione Abruzzo ci sono una marea di biciclette depositate a marcire nei depositi comunali, piuttosto che appunto lasciarle marcire nei depositi comunali, la mia proposta era quella di donarle a quelle persone il cui reddito ISEE fosse inferiore a 2.500 euro all'anno. Quindi piuttosto che farle marcire, diamole, diciamo, a chi non ha... Certo, cioè, le esigenze pratiche e concrete. Lei tra questi individua anche il rischio che alcune persone vengano coinvolte in sette sataniche. Ma che c'è, perché ci sono casi di cronaca. Cioè, non è che si vuole sminuire il fatto che non ci siano. Ricordate anche solo, voglio dire, qui in Lombardia ci tante, furono, no? Della provincia, e ci sono stati omicidi legati a questo. Ma certo, le bestie, da un lato è un'idea di occuparsi della società, insomma una politica un po' più ad ampio raggio. Io condivido quello che fa. Da Leonardo Manera a Leandro Bracco, consigliere regionale sinistra italiana della regione Abruzzo, noi la ringraziamo perché dobbiamo andare un attimo a sentire la borsa. Prima però c'è Luciano che ci chiama da Imola. Luciano, buongiorno, che ci vuole dire Luciano? Ma non sono da Imola, sto telefonando da Sanremo. L'abbiamo trasferita, faccia la borsa a volo. Sarà stato qualche volta a Imola in vita sua, no? No, non mi interessa. Allora, Luciano da Sanremo. Luciano vuole intervenire sul discorso che faceva prima quel signore dei fantasmi. Massimo, no? Merendi, sì. Il Massimo Merendi. Allora, perfettamente ragione, non gli do ragione nel fatto che si possa fotografare quello lì, no. Le spiego, noi praticamente la nostra energia... Prima diciamo di andarsene, prima, se uno muore di morte naturale, questa nostra energia se ne va prima e noi poi moriamo e non succede niente. Lei è così certo aspetti di questa che cosa? Io sono vent'anni che faccio questa cosa, ma ecco, la faccio per me, non faccio nessuna cosa. E quindi? E quindi se invece uno muore giovane e di morte non, diciamo, naturale, questa sua energia rimane qua. È inutile che stiamo lì a giocarsela. Io ho dei dubbi, ma lei invece? Io non ce l'ho dei dubbi, perché l'ho constatato di persona. Guarda, io ero un giorno giù in Venezuela e un mio cliente, praticamente, gli era morta la figlia di 25-26 anni in un matrimonio che aveva preso fuoco, diciamo, il posto dove erano, no? Io sono entrato in quella casa, prima mi si sono alzati i peli e ho visto in questo quadro questi occhi come se mi guardassero, capisci? Ah, mannaggia. Luciano è rimasto scioccato, però dice ha studiato tanto. Però Merendi adesso anche di questo dovrà prendere atto e prendere nota. Andiamo, segnare, perché ci andiamo, può essere bisogno di un intervento. Alle borse. I funamboli. Due carabinieri, io credo che non ci sia stata nessuna violenza, nessuno stupro. Loro hanno approfittato di una situazione particolare di ragazze ubriache e quindi in quel momento sono stati sicuramente consenzienti le ragazze. Questo non significa che loro non debbano pagare. Ieri, ascoltando il monologo di Manera sul primo giorno di scuola, mi sono quasi commosso. Poi mi è venuta in mente una parola: fluoro. E la magia se n'è andata. È per farlo arrabbiare, caro Leonardo, è per farti arrabbiare che l'abbiamo mandato. No, perché già sei arrabbiato prima, non me lo fate arrabbiare due volte. Posso rispondere al primo ascoltatore che sì, il concetto di consenziente. Rispondi all'ascoltatore. Mi dispiace, ma il concetto di consenziente andrebbe chiarito, perché anche, no, capito, quell'assioma che chi tace acconsente, anche se una persona è sfranta, è ubriaca, non si muove più, non riesce ad emettere suono, non è che per questo ci sta. Questo è un concetto che non è chiaro, e a tutti quelli che dicono, se si dovessero considerare allora stupri tutti i rapporti con le donne ubriache, a quel punto non si conterebbero più. Ci sono una serie di cose che andrebbero viste, tipo i carabinieri erano in divisa, erano in servizio, non erano tenuti a far salire le ragazze sulla macchina, avrebbero dovuto anzi proteggerle da eventuali malintenzionati. Poi, una donna ubriaca non è in sé, che è un'altra cosa. Un uomo che si approfitta di una donna ubriaca è un uomo che non è degno di questo nome. No, perché altrimenti uno si... Io non mi voglio accalorare, però no, quando uno dice... mi sta accalorando. Guarda, in questo caso mi spiace dire, sono d'accordo con Veronica, perché racconto questo mio piccolo episodio. Anni fa, sembra incredibile, ma mi capitò veramente, una ragazza che era completamente ubriaca cominciò a gridare nel gruppo: voglio fare l'amore, diciamo così, con Leonardo, voglio Leonardo. Che gli farai alle donne? Allora, siccome lei era completamente ubriaca, io rinunciai, anche se era una ragazza carina, perché mi sembrava veramente sgradevole, brutto e di cattivo gusto, e anche non, insomma, una cosa anche dignitosa, fare l'amore con una donna completamente sfatta. Non capisco onestamente che soddisfazione ci possa essere, ecco. In ogni caso siamo qui alle 10:41 minuti, cari ascoltatori. Però se mi richiamasse adesso da sobria, io ci sono. Vogliamo fare un importante appello, non un appello, vorremmo iniziare a convocare da partire dai prossimi giorni tutti gli ascoltatori che ci seguono dall'estero. Guardate che io lo so, perché l'abbiamo già fatto in passato, sono tantissimi quelli che ci seguono via internet, con la app, con il sito, attraverso tutte queste modalità moderne per ascoltare la radio. Se siete andati all'estero, ci volete raccontare la vostra storia funambolica, raccontare perché siete lontani dall'Italia, cosa percepite di questo vostro paese che è la vostra patria, scriveteci funamboli@radio24.it oppure al 349-238-6666 via WhatsApp, via SMS, dite: sono Giorgio e vi racconto perché ho sfondato nel business in Angola. Però devi dirla tutta, Alessandro, loro scrivono, noi poi guardiamo il posto, diamo un'occhiata alle foto, esatto. E qualora fosse, poi noi arriviamo con la nostra valigetta con un trolley e veniamo a stare un po' per lì. Esempio, vedi, c'è il fedelissimo da sempre Matteo da Columbus, Ohio, che ci sta ascoltando da lì. Credo che non sia passato l'uragano, perché è passato da altre parti. Columbus, Ohio, salutiamo Matteo che ci ascolta da lì, e si può vedere perché il numero è questo: 001614. Arriviamo a Columbus, Ohio. Ma arriviamo un po' in tutto il mondo. Ma adesso è il momento della nostra rubrica Deforbizziamoci. Anche qui dobbiamo fare un appello, Forza, dovete chiamarci all'800240024, scriverci funamboli@radio24.it e raccontare quando avete fatto i furbi. Siate coraggiosi. Quella volta nella vita. La cosa più sconveniente che avete fatto. Esatto. E noi utilizzeremo questa cosa come momento catartico per voi e anche per tutta Italia. Vi sentirete più belli, più liberi, più rilassati, più leggeri, più sinceri dopo che avrete raccontato e la vostra furbizia. Tanti dopo di voi potranno dire: sì, l'ho fatto anch'io, esatto. anch'io. Per esempio, Adriano, ascoltatore nostro, buongiorno, come stai? Buongiorno a voi. Adriano, buongiorno. Come va Adriano? Ti sento un po' giù di morale. Sei un po' giù di morale. Cosa c'è che non va nella tua vita? Sono giù di morale, sono cosa è successo? Sei raffreddato. Raffreddato. Potrebbe peggiorare nei prossimi giorni, Adriano. Non lo so, dopo, guarda Adriano, non anticipiamo troppo perché nell'ultima parte di trasmissione avremo un dottore ospite qui, quindi daremo qualche consiglio di salute. Certo. Adriano, anche sulla salute, quindi sul tuo raffreddore. Adriano, che hai combinato nella vita? Quella volta in cui... Quella volta. Beh, intanto partiamo bene, volevo complimentarmi con la trasmissione e in particolar modo con i conduttori così. Quindi non il regista Peter Bescapè che ci fa schifo. Questa non è una captatio benevolenzie Nespoli. Prima di dire qualche cosa di terribile. Elisabetta Fusconi, Elisa Pancaldi, tutti licenziati, sono i conduttori. Scherzo ovviamente. Dai Adriano, andiamo al punto. Quella volta risale intanto a qualche anno fa, una decina d'anni fa almeno, e entrando in Bratislava. Sì. Un pomeriggio con la macchina e per qualche attimo ho occupato la corsia preferenziale degli autobus. E sono cattivi lì? Dico, sì, i poliziotti. Sì. Soprattutto hanno la vista lunga, perché alla fine di questo viale, da dietro un platano, spuntò una paletta che mi fece fermare ed accostare. Era nascosto dietro al platano? Era nascosto. Ebbi l'idea che insomma... magari vedendo una macchina straniera, non lo so, così sono accostato, questi mi hanno fatto scendere proprio anche con un'aria erano arrabbiati. Adriano, siamo in ritardissimo coi tempi, devi essere di veramente corsa, veloce, deforbizzati al volo. Deforbizzati al volo. E che è successo? Mi hanno contestato un'infrazione chiedendomi, non ricordo, 2000 corone, 2000 fiorini, all'allero. Rispose che non avevo fiorini, solo euro. Questi hanno estratto un blocco notes normalissimo di foglio quadretti, ma hanno scritto 60 euro. Io ho strabuzzato gli occhi e dico: ma no, così tanti. Allora segno sopra 30 euro. E ho detto: va bene, ok, 30 euro. Però vi chiedo un'informazione, dov'è il mio albergo? E questi hanno visto la lettera di dove c'era l'indirizzo e mi hanno detto: follow me. Loro davanti con l'appeggiante e io dietro con la macchina, mi hanno portato pure nel mezzo. Ma ho capito, ma i 30 euro ce li è... cioè 30 euro? Dati, sì, una mazzetta. I 30 euro glielo dati. Ma una mazzetta, cioè nel senso che la multa è dati, stata strappata e loro si sono imbertati, come si dice a Roma. Cioè non abbiamo finanziato il municipio di Bratislava, abbiamo dato 30 euro. Ha fatto una trattativa. Io ho fatto quello che loro mi hanno chiesto. Non ho verificato. Vabbè, Adriano però, ha dato 30. Siamo deforbizzati in due, però è stata una cosa... Non ci ha chiamato il poliziotto di Bratislava, anzi il vigile di Bratislava. Vabbè, diciamo che il nostro Adriano a suo modo con questi 30 euro così... con la mano, come si chiama? La mano farcita. Questa mi manca. Dai sì, la mazzetta nella mano e gliela chiudi. Dici, la tieni, passati la domenica, Alessandro. Che espressioncine che ti ricordi, la domenica con questi 30 euro. È stato defurbizzato. Traffico. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta i funamboli. Allora siamo qui, 10:48 minuti, l'ultima parte dei funamboli. Vedi che Veronica ci scrivono anche da Chennai. Alessandro, siamo in India, in diretta dall'India. Ci stanno ascoltando, ti rendi conto? Scriveteci, Scriveteci. funamboli@radio24.it. Tra poco i giorni inizieremo a chiamarvi se ci ascoltate dall'estero. Paghiamo noi la bolletta, tranquilli. Allora, si dice sempre così, non gli date troppo retta, poi... Paghiamo noi, dai. Chiamata a carico del destinatario quando vi telefona, attenzione. Vabbè, d'accordo, paga Veronica Gentili. Allora, tutto sul suo groppone. La vecchia storia dell'ortolano, vabbè. È il momento di parlare un po' di salute. Prima l'ascoltatore era un po' costipato, noi allora diamo il benvenuto e siamo contenti perché è tra l'altro il periodo in cui si parla di vaccini, si sa, al dottor Mazza che è venuto a trovarci. Buongiorno. Buongiorno dottor Mazza, salve. Buongiorno a tutti, sono il dottor Mazza, primario di pronto soccorso del Policlinico Capricorno. Policlinico Capricorno. Capricorno. Esiste il Policlinico Gemelli, di conseguenza esiste anche il Policlinico Capricorno. Curiamo tutti, ma diamo la precedenza ai pazienti di un particolare segno zodiacale. Poi c'è anche il Policlinico Ariete, Toro, Acquario, per dividerci i pazienti senza appesantire le strutture. Ah, beh, certo. Senta. Allora, dottor Mazza, il problema è no, certo. Il problema è il pronto soccorso. Ci sono stati anche casi di cronaca. Si dice le attese sono troppo lunghe lì. Naturalmente è una tecnica per capire il reale problema del paziente. Se il paziente resiste al pronto soccorso anche per 10-12 ore, vuol dire che soffre veramente, ha un problema reale. Se dopo un po' se ne va, vuol dire che per stare meglio bastava un antinfiammatorio, lo può prendere anche a casa senza appesantire le strutture. Naturalmente non bisogna appesantire le strutture. Se muore. Il vero problema è l'appesantimento delle strutture. Esatto, l'appesantimento. Però senta, c'è anche il problema del vaccino influenzale, no? Arriviamo alla stagione dell'influenza. A chi è consigliato questo vaccino? Chiariamo una volta per tutte. Come sempre, consigliato ai bambini, consigliato ai vecchi, a tutte le categorie che mal sopporterebbero l'influenza, anche se me lo lasci dire, per i bambini normalmente l'influenza non è un problema, è un problema per i genitori che, se il figlio piccolo ha la febbre, non possono andare in palestra, non possono andare al cinema, non possono andare a fare l'aperitivo. Quindi diciamo che ai bambini si fa il vaccino anti-influenzale per permettere ai genitori di continuare ad andare a bere lo sprizzo. Allora effettivamente è una teoria che può avere le strutture, no, non appesantiamo, no, le noi strutture. Non le appesantiamo, no, però no. Anche voi strutture, insomma. Senta, però si parla appunto di vaccini, sono sotto accusa per potenziali effetti collaterali, avrà seguito Ma tutte le cose nella vita hanno un effetto collaterale. Se ti sposi come effetto collaterale per tutta la vita, è una persona in casa che giudica le tue azioni anche in modo pedante e irritante. Effettivamente, se acquisti una casa come effetto collaterale per tutta la vita il pagamento di un mutuo, se guardi il Grande Fratello Vippo hai come effetto collaterale per qualche minuto la morte cerebrale. Insomma, è sempre una questione di costi e benefici, e lo stesso discorso vale per i vaccini. Vabbè, dottor Milan, costi e benefici, non appesantiamo le strutture. No, non ne appesantiamo. Ma lei cosa consiglia di fare proprio nello specifico riguardo al vaccino anti-influenzale? Allora, il mio consiglio per tutti gli ascoltatori è il seguente: se temete possibili effetti collaterali del vaccino, non iniettatelo tutto, iniettatelo una metà. Ma dottore, ma mi sembra un po', vabbè, e così non arriva l'effetto collaterale, così mi scusi. Eventualmente gli effetti collaterali saranno una metà, e con mezzo vaccino anche l'influenza non manifesta in pieno la sua virulenza. Ma è non il mi classico molto compromesso all'italiana che io consiglio anche per i vaccini. Ma lei dove laurea? Mezzo, scusi, vaccino vuol dire mezzo effetto collaterale, mezza influenza. E comunque ricordatevi che nessuno è invulnerabile. Il problema vero non è morire, è capitare nelle nostre mani per essere curati. Mi sembra di sì. Soprattutto con le strutture appesantite. Appesantite, la, sì, certo. La morte ha assunto una certa lievità dopo questo monologo. Sì, esatto. No, soprattutto vorrei capire se vogliamo finire, professor Mazza, esimio professore. Dico pure, dottor Milan, che consiglio dare agli anziani, che sono, come si sa, la categoria più a rischio? Allora, il consiglio per gli anziani è il seguente: bevete molta acqua, soprattutto se non avete i soldi per comprare il pane. mi sembra... È abbastanza pragmatico il dottor Mazza, Leonardo, diciamo. Manera, dottor Mazza, ci è venuto tra... Vi vedo un po' emaciati, forse ci pensiamo da noi. Noi scappa è molto pallido, lo opero io immediatamente. Non vogliamo appesantire le strutture, veramente. No, Lorenzo Nespoli oggi è arrivato toccandosi un po' la spalla, dicendo: aia, c'è qualcosa, dottor Mazza vuole magari fare qualcosa. Andiamo immediatamente a fare una visita approfondita. Mi tolgo la milza. Elisa Pancaldi aveva anche un po' di mal di testa, questo. Magari, insomma, la nostra Elisabetta Fusconi anche, insomma. Se vuole curare loro, facciamo una visita cumulativa al Policlinico Capricorno. Va bene, dai. C'è, per concludere, un ascoltatore, lo premiamo per la grande pazienza che ha avuto, Antonio da Fermo, che è con noi da un pochettino. Buongiorno, per usare Antonio. Un eufemismo, Antonio, ciao. Grande. Ciao. Non chiamo da Fermo, ma chiamo da Teramo. Non indoviniamo una oggi. È così. Cioè, ragazzi, Imperia, Imola, Fermo, Teramo. Ma noi vi ci piace un po' così dislocando. Mi piace poco. La stanzialità non ci piace. Esatto. Nessun problema. Siamo cittadini del mondo. Non siamo esatto, bravo Antonio. Così, cosmopoliti. Assolutamente, assolutamente. Io volevo dare il mio parere sul fatto increscioso di Firenze, ma prima, se mi permettete, volevo rispondere al simpatico consigliere regionale della mia regione, sì. Che ha detto un sacco di cose, poi in un certo momento ha parlato di dare delle cose importanti, che sono la sanità, le infrastrutture e le nuove tecnologie. Ok, allora io vorrei ricordare a questo consigliere che prima di pensare agli elfi e alle fate, dovrebbe ricordarsi che siamo in una regione dove nella provincia di Teramo, poi di cui parlava lui, non c'è una strada che presenti 100 metri di asfalto regolare e quindi è un pericolo. Non c'è, abbiamo decine e decine di piromani da scovare che hanno, cioè, insomma, sotto gli occhi di tutti. No, quindi lei dice che... Antonio, no, perché siamo in chiusa, sente la sigla che incombe, dice si è concentrato su questo, sui carabinieri, se lo tenga per domani, che domani la richiamiamo. Sui carabinieri la chiamiamo domani a sue spese. Antonio, grazie, i funamboli tornano domani alle 9. Ciao.